Salva Danaio di Deborah Rosciani. E benvenuti a tutti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, ben ritrovati a questa nuova puntata che mandiamo in onda, come vi abbiamo già anticipato nel corso del giornale radio, anche oggi dal Salone del Risparmio in corso a Milano. Oggi è la giornata conclusiva, è una giornata particolarmente vivace perché, pensate, sono arrivati più di 1500 studenti provenienti da tutta Italia per un'iniziativa che ha coinvolto 36 scuole e che vi racconteremo tra poco. C'è stato un concorso organizzato da Assogestioni, che è l'ente che riunisce le società di gestione di risparmio e che ospita e organizza questo evento. E quindi questa mattina parleremo di che cosa? Parleremo di educazione finanziaria, perché è stato il tema al centro di questa giornata conclusiva. Parliamo di educazione finanziaria perché riceverla e ricercarla è sempre più importante. Le emergenze, le criticità, le difficoltà di questi tempi di crisi rendono sempre più evidente quanto sia importante essere attrezzati dal punto di vista dell'educazione delle tematiche finanziarie per capire cosa succede attorno a noi, per conoscere le opportunità che ci sono anche nel mondo del lavoro, perché anche di questo si è parlato questa mattina, per conoscere anche i modi per difendersi e affrontare i momenti di crisi finanziaria, per scegliere e agire consapevolmente. Salva Danaio allora dedica a questo tema la testa e ultima puntata in diretta dal Salone. Daremo visibilità ad alcuni progetti ed esperienze specifiche di educazione finanziaria pensata per i cittadini e per le scuole. Però vorremmo condividere con voi ascoltatori anche qual è la vostra quotidianità, la fonte anche non istituzionale di educazione finanziaria della vostra famiglia. Ne parlate a casa vostra? Che discorsi fate? Cosa fate quando avete un dubbio relativo alla gestione del vostro risparmio, alle scelte da prendere in materia di investimento, di previdenza, di prodotti bancari? Vogliamo fare un gioco questa mattina chiedendovi chi è questa persona: un familiare, un amico, un consulente finanziario, qualcuno che lavora in questo mondo o che per qualche motivo ne sa più di voi? Raccontatecelo all'800 24 00 24, oppure scriveteci al 349 238 6666. Ringrazio e saluto, ci accompagnerà nella prima parte del programma il professor Andrea Beltratti, ha una serie di cariche, racconto in tante se sorride, presidente del consorzio Patti Chiari, che è il consorzio appunto delle banche nato qualche anno fa anche per spingere questi argomenti, i temi dell'educazione finanziaria. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. È docente universitario qui alla Bocconi, è presidente uscente del Consiglio di Gestione di Banca Intesa San Paolo. Questo è un tema che stamattina interessa un po' meno, però magari un po' lo vorrei stuzzicare anche sul tema della relazione tra banca e cliente, sulla base anche dell'esperienza che ha maturato in questo contesto negli ultimi anni. Allora, l'ho lasciata a professor Beltratti poco fa nella plenaria appunto della Bocconi, dove si stava tenendo una premiazione per gli studenti delle scuole superiori, ma soprattutto lei ha così è stato un po' l'animatore del progetto dedicato al tema dell'imprenditoria giovanile, quindi diventa imprenditore di te stesso. In cosa consiste questa iniziativa? Beh, l'iniziativa consiste in una lezione che abbiamo fatto a un gruppo ampio di studenti, in cui cerchiamo di fargli capire come è possibile realizzare i loro sogni. Naturalmente noi non possiamo insegnare agli studenti come avere idee brillanti in ambito scientifico, tecnico, per poter poi realizzare prodotti, ma possiamo dare suggerimenti su come, avendo un'idea, è possibile realizzarla, e quindi vogliamo mostrare prima il lato dell'offerta, per così dire, quindi avendo avuto un'idea, che cosa fare per coinvolgere altre persone che lavorano assieme nella stessa azienda, e questo vuol dire poi occuparsi della parte commerciale e così via, e anche della parte finanziaria, perché vuol dire poi trovare investitori disponibili a investire capitale di rischio e finanziamenti. La seconda parte della lezione allora poi passa dalla offerta alla domanda, e quindi vogliamo mostrare ai giovani quali sono i problemi che si trovano gli investitori finanziari prima di aderire e di prestare i loro capitali, e quindi parliamo dei concetti di rischio, di rendimento, di diversificazione, mostrando come con un'opportuna diversificazione il rischio per chi presta capitale può essere ridotto ed è più facile avviare un circolo virtuoso in cui i finanziamenti davvero vanno a finanziare delle imprese innovative. Ecco, gli imprenditori di cui ho sentito le testimonianze questa mattina in questi filmati che avete proiettato hanno delle idee davvero incredibili. Addirittura c'è questo ragazzo toscano che si è non inventato, perché non è il termine giusto, perché ha studiato a lungo per formare appunto questa idea, un sensore per aiutare le persone colpite da SLA. Questi ragazzi, ho visto che hanno studiato molto all'estero e hanno anche ricercato finanziatori internazionali, ma che cosa dicono delle banche italiane che in questo momento, professor Beltratti, hanno tagliato un po' i cordoni per tutti? clienti, soprattutto ecco la banca che relazione ha con l'imprenditoria giovane che è così vivace dal punto di vista anche intellettuale? Beh, allora secondo me qua dobbiamo evitare di far confusione e dobbiamo ricordare che ci sono vari prodotti finanziari che sono dati a varie fasi di vita dell'impresa, quindi quando un'impresa sta nascendo certamente c'è bisogno di capitale di prestito, che è quello che la banca può dare, ma c'è soprattutto bisogno di capitale di rischio, cioè bisogna convincere degli investitori a coinvestire insieme all'imprenditore sull'azienda. Quindi la banca di per sé come istituzione che prende depositi e fa prestiti, se non ha dei prodotti dedicati o delle società dedicate a queste iniziative di start-up, in un certo senso può solo provvedere ad una parte anche piccola, anche perché poi non dimentichiamoci che queste idee, quando sono davvero innovative, hanno un futuro molto incerto, e quindi le banche ovviamente, avendo dei depositi, facendo dei prestiti, ma in un certo senso amministrando soldi che non sono della banca, ma che sono dei depositanti, deve comunque fare attenzione a ragionare in un contesto di diversificazione. E quindi è molto importante, e forse è quello che manca in Italia. In questi giorni c'è un ampio dibattito su come far sì che anche in Italia i capitali tornino davvero a investire in attività produttive. Forse quello che manca in Italia è maggiore attenzione, maggiori prodotti e società dedicate proprio al tema dello startup. Devo dire che ci sono anche delle banche, adesso noi ovviamente siamo abituati a considerare, a condannarle in ogni momento della giornata, perché siamo abituati appunto a commentare i fatti recenti, però in realtà ci sono anche delle strutture appositamente dedicate all'interno delle banche, non solo possono erogare denaro per finanziare appunto questi progetti, molto spesso mettono anche a disposizione interi staff per accompagnare anche piccole imprese su mercati appunto che non conoscono. E quindi questa è una delle tante iniziative di cui si è parlato questa mattina. Lei è presidente di Partichiari, professor Beltratti, un'altra cosa che ha fatto negli ultimi anni, io non l'ho ricordata, ma gliela dobbiamo riconoscere, ha curato il rapporto BNL Einaudi appunto sul risparmio delle famiglie italiane. Le volevo chiedere un commento su questo, perché abbiamo la sensazione, anche osservando il movimento che c'è stato in questi giorni qui in questo salone, che abbiamo di fronte davvero un paese spaccato in due, dove la finanza ha ripreso a marciare a pieno ritmo, l'economia reale invece è in ginocchio. Anche lei la stessa sensazione, o è una fotografia scattata male da un fotografo non professionista? No. Dunque, io credo che inevitabilmente in ogni fase di transizione economica ci sono settori perdenti e settori vincenti, quindi non è la prima volta che vediamo che nelle fasi di modifica e di cambiamento ci sono delle grandi rivoluzioni, quindi è normale che in una fase come questa ci siano settori particolarmente in difficoltà e imprese particolarmente in difficoltà. Il problema è come cercare di aiutare le imprese nuove nascenti ad affermarsi, e allo stesso tempo è quello di avere dei sistemi anche di redistribuzione del reddito che consentano chi è in difficoltà perché perde il posto di lavoro, perché l'azienda deve chiudere, a sempre di più poterlo affrontare con relativa serenità. Quello che noi vediamo, io credo, non sia tanto una contrapposizione tra l'economia finanziaria e l'economia reale, perché anche nel settore finanziario ci sono poi settori che possono andare meglio, possono andare peggio. Per esempio, chi si occupa di pura gestione del risparmio e di risparmio gestito probabilmente va meglio, perché i risparmi e le attività finanziarie degli italiani sono ingenti e sono rimaste ingenti. Parliamo di livelli di attività finanziarie che in valore nominale sono addirittura superiori a quelle tedesche. 3.500 miliardi. Dai dati anche della Banca d'Italia. Quindi parliamo veramente di un'enormità. E quindi non è sorprendente che quella parte dell'industria finanziaria continui ad andare bene. Ci sono altre parti dell'industria finanziaria, come le banche commerciali, quelle vicine all'economia, che soffrono con l'economia. Quindi credo che la figura non sia così nettamente bianco e nero, sia un po' più mista. Io credo che la cosa confortante che vediamo in questo salone, che possiamo vedere anche in giro, è che comunque al di là delle parti di difficoltà su cui si concentra naturalmente l'attenzione dei media, è normale, e delle banche, di tutti quanti, ma ci sono anche tante iniziative potenziali che stanno nascendo e che possono veramente avviare il Paese verso un ciclo di distruzione e creazione, che è l'unico che poi ci consentirà di tornare a un tasso di crescita plausibile. E che non tutto è perduto, lo dimostrano anche questi due ragazzi che ci hanno raggiunto proprio in questo momento in studio. Io saluto Viola e Luca, ciao, benvenuti. Li ho conosciuti poco fa perché li abbiamo premiati appunto questa stamattina qui alla Bocconi. Loro fanno, allora Viola, ricordami la vostra scuola? L'IES Blaise Pascal di Giaveno. Di Giaveno, Balsusa a Torino. Allora, voi siete una quarta, una quinta, la quinta, perché la quarta invece ha vinto il concorso fotografico della vostra scuola. Voi siete qua perché questa mattina avete invece portato un progetto legato al tema dell'educazione finanziaria, appunto, che avete organizzato all'interno della vostra scuola. Che cosa avete fatto? Col progetto Economicamente, un signore che si chiamava Mecca è venuto nella nostra scuola e abbiamo approfondito appunto l'argomento del risparmio, degli investimenti, dell'essere fondamentale nell'investire su noi stessi, perché come lo fa la scuola, come lo fanno i nostri genitori, dobbiamo essere noi i primi a investire su noi stessi. E quindi ci ha aiutato molto a pensare al futuro, perché come i problemi di noi ragazzi sono questi, cioè la pensione, il fatto che abbiamo paura che non avremo mai una pensione, e il problema che sarà difficile senza grandi capacità trovare un lavoro. Quindi è fondamentale lo studio, è fondamentale avere passione, ne abbiamo parlato appunto nell'incontro, ci è servito molto, perché abbiamo subito pensato a come cercare di investire in noi stessi per un futuro migliore. Ecco Luca, invece per quello che ti riguarda, a noi interessa molto sapere anche qual è il livello del dibattito all'interno delle famiglie di questo argomento. È un tema che trattate solamente a scuola, oppure quando tu sei a casa discutete anche da qualche mese a questa parte, come facciamo noi in maniera ossessiva, di questo benedetto spread? Assolutamente sì. Vi è cascato addosso anche a voi? Assolutamente sì. Il problema è un po', penso che sia dell'italiano medio, penso che in linea di massima tutte le famiglie che non hanno possibilità economiche particolarmente rilevanti discutono di questo problema. Si discute soprattutto del fatto che un futuro, bene o male, bisogna cercare di garantirlo da parte dei genitori, e si discute sul fatto che il futuro è sempre più costoso per le famiglie, soprattutto per le famiglie che hanno comunque più di un figlio e che comunque devono cercare di garantire il futuro a più di una persona, perché poi fare delle inequità non è comunque corretto all'interno della famiglia. Per cui si parla molto anche del risparmio, del fattore risparmio, si cerca di comunque spendere sempre meno e di arrivare ad avere delle disponibilità proprie per cercare di far fronte ai propri bisogni nella maniera più autonoma possibile. Penso che ognuno di noi che si vuole garantire un determinato futuro a questo punto della propria vita, quindi a quasi 19 anni, stia cercando comunque qualcosa di alternativo alla scuola, oltre che a studiare, perché lo studio comunque è una delle basi fondamentali per poter arrivare a fare qualcosa che ci piace e non adeguarci al primo lavoro che capita, secondo me. Cerca comunque di trovare qualcosa di alternativo da fare, quindi cerca di arrivare a un lavoretto. Non ci state genere. Voi a sentirvi definire chiusi, anche se voi in realtà non siete ancora entrati nel mondo del lavoro. Viola, tu come lo vedi il tuo futuro? Intanto ho sentito dire che forse il professor Beltratti potrebbe essere una sua studentessa. Viola, sì? No, vuoi venire qua in Bocconi, non vuoi trasferirti a Milano? No, ho preferito altro. Raccontacelo. Un'altra scelta. Deciso di avviarmi verso la formazione primaria, perché l'unica cosa che sono sicura di voler fare è fare qualcosa che mi piace. E venire qui era una delle opzioni che avevo tenuto in considerazione, però ho capito, e meno male, se no avrei perso anche degli anni, che non è quello che voglio fare, non è quello che più mi appassiona, e quindi ho deciso che rimarrò a Torino e farò scienze della formazione, almeno per i primo anno, poi magari cambierò anche città, adesso vedremo. Benissimo, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Viola, Luca, invece tu che progetti hai per te? Io invece ho progetti simili a questo posto qua, nel senso che io rimarrò a Torino, non verrò qui, ma farò comunque economia e commercio e diciamo che cercherò, proverò a fare l'indirizzo in lingua, perché diciamo che economia e commercio è una facoltà comunque frequentata, ci sono tante persone che la frequentano, e l'unico modo per poter, come secondo dire, me se ci si vuole distinguere bisogna fare qualcosa di alternativo, se no è inutile, ci si adegua e come dicevamo prima ci si adegua a quello che insomma si trova. Hai già una proiezione internazionale? Sì, io spero comunque di poter fare esperienza all'estero, questo sì. Benissimo. Sicuro. Non tutto è perduto, professor Beltratti, insomma. Anzi, per chi ci vuole, per tutti anche gli investitori internazionali che ci hanno venduto tanto ultimamente facendo allargare il nostro spread, lo spread invece diciamo della gioventù è tutt'altro che così ampio rispetto appunto anche forse alle esperienze europee. Certamente, che ne pensa di questi ragazzi? Penso che i giovani non sono il problema del nostro paese, ecco. Anzi, sono la soluzione. Ed eccoci ritrovati in diretta dal Salone del Risparmio di Milano, Università Bocconi. Anche oggi siamo in diretta appunto da qui con Salva Danaio per la terza giornata conclusiva, questa mattina quasi interamente incentrata sul tema dell'educazione finanziaria. Come vi abbiamo spiegato all'inizio del programma, sono state invitate delle scuole, premiate delle scuole per le loro iniziative appunto intorno a questo argomento, che sono state appunto confezionate nel corso dell'anno scolastico. Fra qualche istante vi presento altre due ospiti che ci hanno raggiunto. Prima però vorrei terminare la mia chiacchierata con il professor Andrea Beltratti, che appunto, come vi dicevo prima, è anche presidente del consorzio Patti Chiari, che è questo consorzio di banche che è stato organizzato qualche anno fa, quando la questione della reputazione bancaria era proprio al centro del dibattito nel nostro paese. Vi faccio sentire questa scheda e poi chiacchieriamo ancora con lui. Dall'aumento immotivato di alcuni costi alle variazioni unilaterali di alcune condizioni, fino ad arrivare ai casi più gravi di risparmio tradito, capaci di danneggiare molto duramente i risparmiatori. Cirio, Parmalat, Bond Argentini. La più recente crisi dei subprime. Sono tante le situazioni che possono mettere in crisi, e hanno messo in crisi in passato, la fiducia che i cittadini ripongono nelle banche. E il consorzio Patti Chiari è nato proprio in un momento in cui la difficoltà di questo rapporto era particolarmente evidente. Patti Chiari riunisce 72 istituti, che messi insieme corrispondono al 70% degli sportelli presenti in Italia, e persegue obiettivi come la promozione della qualità, l'efficienza del mercato e l'educazione finanziaria, collaborando con le associazioni dei consumatori, il mondo accademico e quello della formazione. La trasparenza, insomma, è un aspetto fondamentale che, insieme alla sicurezza, all'assistenza, alla consapevolezza delle scelte, permette di instaurare relazioni durature di clientela e di disponibilità alla gestione del proprio risparmio. Non può venire meno proprio in un momento di crisi come questo, che non ha mancato di mettere in una luce non sempre positiva l'immagine della banca, e deve essere accompagnato dalla capacità e dalla voglia di informarsi e di formarsi, di conoscere l'ABC del mondo finanziario. In questo senso, il progetto Patti Chiari arriva anche sui banchi di scuola, per introdurre le tematiche economiche anche ai ragazzi delle scuole medie e superiori e ai bambini delle elementari. Insomma, non è mai troppo presto. Direi quantomeno alla scuola materna, almeno facciamoli giocare, non cominciamo subito ad ossessionarli con questi argomenti. Professor Beltratti, lei lo sa bene, perché glielo stavo raccontando poco fa a microfoni spenti: tutte le volte che si nominano Patti Chiari, che si nomina appunto il consorzio Patti Chiari, molti ascoltatori fanno immediatamente l'associazione di idee tra l'esistenza di questa istituzione e quello che accadde nel settembre del 2008, quando, col fallimento di Lehman Brothers, sul sito di Patti Chiari c'era ancora il giudizio AAA attorno all'obbligazione emessa appunto dal colosso americano, poi fallito. E certo che qualche volta dispiace un po', immagino anche per voi, dover essere associati solamente a questo, quando poi, aprendo il sito, si vedono tutte le cose che fate, soprattutto legato al tema dell'educazione finanziaria, o no? Che ci dice? Beh, sempre di più credo che Patti Chiari avrà una finalizzazione legata proprio all'educazione finanziaria. E noi speriamo che i semi che gettiamo, fra l'altro non da soli ma con tante collaborazioni, alcune a livello regionale, fra l'altro in Lombardia credo proprio con uno degli ospiti con cui parleremo tra poco, c'è una fortissima collaborazione molto positiva che riguarda proprio le scuole. Quindi noi speriamo di gettare dei semi, speriamo di essere ricordati sempre di più per la parte positiva di quello che stiamo facendo e quello che faremo, e speriamo poi anche praticamente tramite l'educazione finanziaria di aiutare poi tutti quanti a evitare casi come quello di Lehman, che alla fine poi era un caso che ha avuto un impatto molto negativo su alcune persone per un problema di nuovo di mancanza di diversificazione. Io trovo però che tante volte questo dibattito sull'educazione finanziaria sia un po' sbilanciato, perché ritengo che si attribuisca troppa responsabilità al fatto che l'individuo, la famiglia, non sappia troppo. Ho trovato molta poca ricerca di responsabilità all'interno dell'industria su quanto accaduto anche negli anni passati. Ritiene che lì si debba fare qualche passo in più, professor Beltratti, come penso io? Beh, io credo che tutti quanti dobbiamo fare dei passi in più, quindi sicuramente le persone devono fare dei passi in più con una maggior consapevolezza, perché solo in quel modo possono interagire in maniera consapevole con gli intermediari. Gli intermediari hanno certamente l'obiettivo, il compito di dare prodotti e servizi sempre migliori, consulenza sempre migliore, per poter avere una base di clientela che si espande, Quindi credo ci sia veramente una comunanza di interessi, tutti quanti dobbiamo sforzarci a fare di più. Il Museo del Risparmio di Torino, lei ultimamente, siccome non ha niente da fare, ha voluto anche animare questa iniziativa che non ha moltissimi mesi di vita, forse neanche un anno sì, circa. Un anno. Ecco, che cosa avete pensato di fare in questa città? Beh, abbiamo pensato di organizzare un luogo fisico in cui la gente che lo desidera possa recarsi e avere delle conoscenze di base di educazione finanziaria, con dei percorsi che possono essere o molto semplici, dedicati alle scuole, oppure intermedi o anche più difficili, quindi è anche aperto a chi ha già qualche conoscenza. Abbiamo cercato di creare un luogo fisico perché abbiamo notato che molte delle iniziative di educazione finanziaria o hanno luogo direttamente nelle scuole, che sono il bacino naturale più facile da raggiungere, oppure hanno luogo attraverso internet. Ma noi sappiamo che internet in Italia ha gradi di penetrazione anche inferiori rispetto a quello che succede all'estero, e in ogni caso, anche se un adulto va su internet, prima che capisca cosa succede, si scarichi il materiale e se lo studi da solo, a volte non è facile. Quindi noi pensiamo che un luogo fisico in cui avere un'esperienza anche sensoriale, con degli strumenti innovativi che sono filmati, interviste, giochi interattivi, videogame che abbiamo sviluppati, possa essere un utile complemento alle iniziative che già ci sono, e devo dire che i riscontri sono positivi. Abbiamo avuto circa 12.000 visitatori nel primo anno di vita, che non è male dato il bacino potenziale. Se noi guardiamo cosa è successo a Città del Messico, a Pechino, che hanno aperto iniziative simili, e noi fra l'altro siamo parte di un federazione internazionale di musei che sta nascendo e che si vedrà a New York per la prima volta a metà giugno. Se noi prendiamo la percentuale tra visitatori e bacino potenziale, troviamo dei numeri che non sono tanto dissimili dal nostro, quindi siamo piuttosto contenti e speriamo che si possa continuare a investire in queste iniziative, e riteniamo che Intesa San Paolo abbia svolto un'iniziativa veramente innovativa e intelligente, tanto che da tante parti d'Europa e persino dalla Cina sono venute a visitare il museo per imparare. Mi interessa il tema dell'esperienza sensoriale, che cosa abbiamo sviluppato dei videogame, sviluppato dei videogame educativi che possono adatti a partire da bambini di 7-8 anni. C'è per esempio un gioco sulla paghetta in cui si guadagnano dei soldi chiaramente solo nel gioco, e poi si decide se risparmiare o no, si vede che se si risparmia il capitale aumenta e si decide cosa consumare. Ci sono poi dei giochi che sono più legati alla parte di business plan, imprenditoria o dei financial planner. Abbiamo una parte su risparmio e cinema in cui mostriamo 4 spezzoni di film, perché vogliamo far ragionare le persone sul fatto che nozioni di economia e di risparmio possono essere trovate ovunque, anche nell'arte. Abbiamo delle rappresentazioni di filmati di Dante Alighieri o Shakespeare che ci parlano del denaro nelle loro opere, nella loro vita. Quindi vogliamo aiutare le persone a ragionare, a riflettere e capire da tanti punti di vista. Quindi pensiamo che questo sia molto innovativo. Professor Beltratti, grazie per essere stato con noi. La lasciamo adesso ai suoi studenti. Esatto, in boccone. Esattamente. A presto, molte. Buon lavoro. Io ringrazio e saluto le due ospiti che ci hanno raggiunto. Alma Foti è consigliera nazionale dell'ANASF. Ed eccoci ritrovati in diretta. Incredibilmente mi state sentendo dal telefono, perché per un problema di carattere tecnico legato appunto alla corrente elettrica abbiamo adesso in questo momento l'esigenza di concludere la nostra trasmissione con questa modalità. Speriamo di divertirvi, e comunque insomma la radio riesce ad andare avanti anche nelle condizioni di difficoltà più incredibili. E allora noi siamo in diretta dal Salone del Risparmio di Milano, come vi raccontavo nella prima parte del programma. Siccome questa terza giornata è quasi completamente incentrata sul tema dell'educazione finanziaria, sono state invitate delle scuole, sono state premiate delle scuole nell'ambito di un concorso, ve ne abbiamo parlato nella prima parte del programma. Adesso cerchiamo di capire anche nelle scuole che cosa sta succedendo, che tipo di iniziative nel mondo scolastico sono in corso. Abbiamo un'iniziativa molto interessante appunto che riguarda la Lombardia, ed è qui con noi la professoressa Maria Rosaria Capuano, docente presso l'ufficio scolastico regionale per la Lombardia. Ho detto tutto correttamente? Stavamo anche sorridendo un po' del fatto che, essendoci tre donne questa mattina a gestire questa emergenza, sicuramente sopravviveremo fino alle 12.55. E poi stavo presentando, quando è improvvisamente venuta a mancare la luce, Alma Foti, che è consigliera nazionale dell'ANAS, l'Associazione Nazionale dei Promotori Finanziari, ed è formatrice nell'ambito del progetto Economicamente, che l'ANAS organizza appunto con la collaborazione delle scuole della Lombardia, ma anche di tutta Italia, credo. Quindi i promotori finanziari dentro la scuola, e uno dirà: non è che andranno a caccia di clienti, dottoressa Foti? Non è così, naturalmente. Intanto buongiorno a tutti. No, non vanno a caccia di clienti. L'obiettivo è quello di formare quelli che riteniamo siano i risparmiatori di domani, gli investitori di domani. Noi teniamo molto al tema dell'educazione finanziaria. Io penso che proprio il ruolo del promotore finanziario, oltre a quello di avere diffondere conoscenze in campo finanziario e economico, deve cercare di rendere sempre di più il cliente consapevole delle scelte che fa, così come si era detto prima. E abbiamo scelto le scuole medie superiori, quindi la fascia dell'ultimo triennio, per proporre quello che è il nostro programma, che economicamente è nato nel 2009. E che cosa avete fatto, ecco, fino ad oggi? Siamo nel 2013, 4 anni di impegni che vi hanno portato in tutta Italia, appunto, con che tipo anche di risultati? Allora, siamo stati in 125 scuole e abbiamo promosso oltre 300 aule. Molti dei miei colleghi sono diventati formatori, quindi abbiamo fatto delle scuole di una scuola di formazione per poter essere abilitati a poter proporre questo programma. È un programma particolare perché la parte importante è quella che riguarda la demografia, cioè il cambiamento a livello demografico che c'è stato, quindi nel ciclo di vita, fino ad arrivare all'importanza della pianificazione. Io dico sempre ai ragazzi: voi avete una risorsa molto importante che è quella del tempo, e quanto sia importante decidere oggi piuttosto che domani, perché oggi ti porta un vantaggio, comunque non ti fa perdere dei soldi domani. E poi parliamo anche di strumenti finanziari, di strumenti previdenziali, certamente fa parte del programma, ma il focus è proprio sulla pianificazione. E l'importanza poi anche di spiegare chi sono gli operatori del mercato e quanto sia importante anche affidarsi, ma dando anche la capacità di scegliere, capire quello che può essere un operatore, certo, affidabile. Tante lezioni speciali, immagino, negli ultimi mesi sullo spread, vi sarete dovuti cimentare anche in questo, a spiegare anche quali sono i nuovi termini della finanza, perché lei lo sa meglio di me, anche noi che operiamo, diciamo, in questo ambito, prima del luglio del 2011 sicuramente non era mai stato un tema all'ordine del giorno tanto come negli ultimi mesi, no? Io ci scherzo spesso, ma in realtà è proprio così. È interessante vedere i ragazzi che curiosità hanno nel conoscere effettivamente cosa sia uno spread e cosa voglia dire un declassamento, perché spesso sono termini che si usano facilmente in televisione, ma non vengono mai spiegati esattamente cosa sia, e sono molto interessanti, sono curiosi. Allora, professoressa Capuano, le chiedo se queste iniziative che avete appunto organizzato per le vostre scuole qui in Lombardia sono state condivise e come con le famiglie dei vostri studenti? Con le famiglie direttamente, sono direttamente le scuole che hanno il compito di condividere con le famiglie. Io sono parte dell'ufficio scolastico regionale e il problema che ci siamo posti invece noi è, visto che sul territorio lombardo c'è un fiorire di iniziative di enti privati che vanno nelle scuole a fare formazione, a offrire in qualche modo interventi di formazione sia ai docenti che agli studenti, abbiamo ritenuto opportuno in qualche modo governare e coordinare l'azione, e quindi da lì è nata l'esigenza di organizzare un tavolo di coordinamento che ha riunito una serie di enti tra cui Banca d'Italia, Patti Chiari, l'ANAF, le università, le tre università milanesi che si occupano di economia, in maniera da strutturare un'offerta alle scuole che sia coordinata e pensata, con un quadro sinottico ben preciso di quali sono le offerte alle scuole, che cosa significano, a chi sono diretti e quant'altro, in maniera che la scuola in primo luogo possa compiere una scelta più consapevole. Stupisce molto il fatto che comunque sia un'iniziativa di carattere individuale, mi sbaglio, non c'è niente di indirizzato da Roma, dal Ministero. Sa perché le faccio questa domanda? Quando stavo pensando a come poter fare questa trasmissione questa mattina, pensavo proprio al tema della relazione tra educazione finanziaria e scuola. Con i confini geografici che cambiano, spesso i libri di testo vengono immediatamente dall'editoria modificati. Con tutto quello che è stato stravolto nel sistema finanziario negli ultimi anni nel mondo, in realtà vedo che c'è stato molto poco interesse invece nel trasferirlo anche nel mondo scolastico, perché i ragazzi devono essere anche messi a conoscenza, no, delle trasformazioni profonde che l'economia ha vissuto. Per cui mi stavo chiedendo effettivamente come mai anche voi nel mondo della scuola che tipo di domanda vi fate su questo, perché non ci sia niente dal Ministero dell'Istruzione di importante che arrivi su questo terreno, oppure c'è e io non lo conosco, professoressa Capuano, perché lei ci ha parlato. Appunto, lei ha detto: noi in Lombardia, io ho preso in mano la situazione e ho voluto coordinare, ma non c'è stato nessun indirizzo dal ministero che arrivasse, mi sbaglio? No, si sbaglia, in effetti ecco. Ci sono sempre degli atti di indirizzo. Di recente proprio il ministro Profumo ha sottolineato l'importanza dell'educazione finanziaria nella scuola. L'educazione finanziaria però non è e non deve diventare, a nostro parere, una nuova disciplina da inserire nei programmi scolastici. Perché no? Ma è una competenza e come tale deve rientrare tra le competenze di cittadinanza, la nuova trasversali, la possiamo chiamare così. Esatto, trasversali al curriculum scolastico. Quindi va benissimo e le scuole ci stanno lavorando. Il MIUR peraltro ha firmato una serie di memorandum, per esempio c'è il memorandum con Banca d'Italia, un'intesa con Patti Chiari. Quindi è chiaro che sono atti di indirizzo, poi come naturale che sia, ciascun ufficio scolastico regionale interpreta, personalizza. Come hanno vissuto le scuole questa esperienza? Che cosa vi ha colpito in particolar modo relativamente alla loro partecipazione? Devo dire innanzitutto l'interesse. Quando io ho preso in mano l'educazione finanziaria, da non esperta peraltro, però esperta senz'altro di coordinamento e di progettazione, pensavo che rimanesse un segmento un po' di nicchia, e invece mi ha colpito molto l'interesse innanzitutto dei docenti. Quest'anno abbiamo proposto dei moduli di formazione, ben 6, alcuni più generali, altri molto tecnici e specifici, e abbiamo avuto un buon numero di docenti che hanno partecipato alla formazione. Alma Foti, state andando in tutta Italia, qualora adesso magari non è l'orario giusto, ci fosse all'ascolto qualche insegnante che è stuzzicato dall'idea di portare appunto i vostri formatori all'interno del proprio istituto, che cosa può fare appunto per poter avviare questo tipo di progetto? Beh, intanto c'è un sito che è www.anasco.it dove si possono avere tutte le informazioni anche riguardo al progetto, quindi c'è un numero di telefono da contattare, in ogni regione abbiamo dei formatori e quindi si possono prendere contatti con loro. Quindi sono direttamente i promotori finanziari del posto che possono relazionarsi appunto con le scuole. Altri progetti appunto sempre sul tema dell'educazione finanziaria, che promotori finanziari, io ho sotto gli occhi la carta dei diritti dei risparmiatori, dobbiamo prenderci cura delle famiglie italiane in questo momento. Assolutamente, la carta dei diritti del risparmiatore tra l'altro risale al 2005, è una cosa di cui ANAS è molto orgogliosa, perché espone tutte le cautele che deve avere un risparmiatore e i diritti che ha, soprattutto riguardo al diritto ad avere un mercato che sia il più trasparente e chiaro possibile. Allora, noi miracolosamente siamo arrivati alla fine della trasmissione, incredibile a dirsi, ma è vero, quindi l'abbiamo portata a casa telefonicamente, per cui ringrazio doppiamente, perché le ho fatte vivere un'esperienza inedita, ve lo assicuro, Alma Foti e la professoressa appunto Capuano, se state con noi, grazie anche a Davide Ciocia, Pietro Lacorte, che lo stesso un po' in maniera rocambolesca sono riusciti appunto ad attrezzarsi per riuscire a concludere Salvadanaio, grazie a Marco Lombardo che è qui con me oggi in assistenza a Salvadanaio. Questa è stata l'ultima puntata in diretta dal Salone del Risparmio, probabilmente ci risentiremo da queste stanze appunto dell'Università Bocconi anche l'anno prossimo, noi invece regolarmente torniamo in diretta con Salvadanaio lunedì dagli studi di Radio 24. A tutti, buona giornata. Salvadanaio.